Io decido di tenerlo in mano. Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly whose day is but number three. Listen to the butterfly. Don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God. Don't listen to me. Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Ciao a tutti, questo era Leonard Cohen che come sempre ci ricorda di ascoltare. Io sono Lollo Cat e questo è Club Chimera, un programma radio ospitato da Exalge e dedicato ai mondi della musica, dell'ascolto, del suono e di tutte le dimensioni che da questi mondi vengono toccate anche tangenzialmente. Oggi, in questo mese, siamo nella Gemini Season e ho con me probabilmente le best gemelle di Milano, Eda e Baptism, a cui chiedo se vogliono salutarci, raccontarci qualcosa prima di entrare nei caldi argomenti della giornata. Hello, it's Baptism. Ciao a tutti, sono Baptism, sono una DJ, una performer che vive ormai da troppo tempo a Milano, but I came from the countryside of Italy, e quindi sono qui insieme a voi per parlare un po' di musica. Ciao a tutti, sono Eda, provata da qui con la mia amica Gemini da questa season, bella, che caldo. E sono qui stasera anch'io, grazie per l'invito e per questa cosa che stiamo tirando su, per parlare un po' di musica insieme, fare quattro chiacchiere tra amiche, direi. Mm-hmm. Sì, è la parola d'ordine della serata. E si parla di Gemini Season perché oggi si parla del genere di musica elettronica più gemelloso, indubbiamente, che è un genere chiamato con un termine ombrello hyperpop, che adesso un po' capiremo perché, come, quando va bene usare questo termine. Io devo fare un disclaimer perché mi avvicino a poter anche solo immaginare di fare questa puntata tramite un libro che è Hyperpop, il pop nell'era del capitalismo digitale, pubblicato in Italia da Nero Editions e scritto da Julie Ackerman, una sociologa, musicologa, giornalista francese. Io però, sostanzialmente, fino al 2021-2022, manco sapevo chi fosse Charlie XCX. Qua se ci sta ascoltando, devo ammettere come fatto a vivere? Non lo so, in effetti la mia vita è più colorata adesso. Devo ringraziare, mando un grande saluto se ci ascolta, a Cesare, grande prima gemellosità che è entrata nella mia vita, che mi ha guardato e mi ha detto: amo, tu sei fuori di testa, recupera subito. E niente, vi faccio io un cappello introduttivo a partire da questo libro e poi diamo il via alle danze. Cosa fa questo libro di Julie Ackerman? Sostanzialmente analizza l'hyperpop andando a vedere come questo genere rappresenta un momento di confusione totale nell'epoca iper-post-capitalista. Un momento in cui, secondo lei, le persone vivono, sono nate, sono cresciute proprio con tutti i grandi miti del capitalismo, ne vedono le falle, ne vedono i problemi, ne vedono la crisi imminente e non sanno come reagire. Secondo Julie Ackerman, da un punto di vista musicale, una modalità di reazione è stata quella di andare a recuperare la cultura e la musicalità del pop, quindi l'espressione massima a livello musicale di una cultura capitalista, e di giocarci in modo post-ironico, giocarci in modo un po' ghignando, un po' appropriandosela, un po' criticandola ma non si capisce bene come, e soprattutto di portare all'estremo tutte le sue caratteristiche. Per esempio, il pop sfrutta una figura egemonica di femminilità, l'hyperpop la porta ancora più in là e diventa mega sexy, mega fregna, mega tettona, o addirittura infantilizza le voci. Oppure il pop ha delle musichette molto accattivanti, molto orecchiabili, l'hyperpop le rende così orecchiabili che sono fatte di plastica e che non riesci più a capire quanto sono vere, quanto sono false. E la cosa interessante è che, per esempio, a me questo libro, pur raccontandomi tutto un genere di cui non avevo molti riferimenti culturali, ha parlato, perché parlava comunque di un'esperienza che, se non nella musica, io ho fatto nella vita. Cioè quello che sta succedendo a tutte noi, che è tutto così all'estremo, con questi estremismi non sappiamo più cosa fare e che facciamo? Iniziamo a giocarci. Quindi andiamo un po' a vedere come è nato questo gioco iperpopposo. Una domanda che io ho pensato di porre alle nostre ospiti è stata quella di chiedere a loro cos'è l'hyperpop, non solo da un punto di vista strettamente musicale, ma cosa comunica loro l'idea, la parola hyperpop. Quindi a livello generico possiamo aprire così le danze. Allora, sì, inizierei io. Grazie per la domanda, intanto. Allora, mi risuonano molto il capitolo introduttivo, le cose che hai appena detto, perché per me l'hyperpop, uso questo termine più che riferendomi al genere musicale, per me è stato un po' in questi anni aver trovato appunto questo termine. Ho ritrovato come questa sensazione di filo conduttore, appunto proprio di ritrovare tutta una struttura culturale, tutti dei riferimenti culturali oltre che musicali che avevo che mi hanno formato durante la mia adolescenza, la mia prima infanzia, tutte queste riferimenti musicali anche americani, del pop americano. Per me l'hyperpop è proprio questo filo conduttore che poi nella mia ricerca musicale, di espressione, artistica, anche se vuoi, hanno proprio dato un significato, perché sono riuscito adesso a ricostruire certe cose che nell'adolescenza erano più intime, più della mia cameretta. Quindi sento forte questo filo conduttore tra quegli anni, tra il 2010, ma anche prima, e questi anni, il 2021 in poi. Sì, assolutamente, anch'io la penso come Eda, proprio ritornare ad essere autorizzate, ad essere bambine fondamentalmente. Io poi faccio una grande distinzione fra quello che è hyperpop e PC music. Mm-hmm. Vengo da una scuola un po' vecchia, un po' old school, che lo chiamava PC music, che è proprio personal computer music. E quindi diciamo che l'hyperpop è un po' un termine appunto ombrello che va a comprendere anche quello che è una aesthetic, una importante immagine che sicuramente anche si trasmette tramite i social, il modo di vestirsi, il modo di comunicare, per me che insomma mi mangio questo genere da sempre, comunque ritorna tanto alla musica delle macchine, cioè è bello che ci hanno validato il fatto di essere bambine e appunto sia noi, insomma la gioventù ancora per poco, che chi insomma si ascolta Aphex Twin da una vita riesce a vibare, a partecipare allo stesso modo. È un bellissimo connubio, è una bellissima fusione fra mesh colorate e capelli brizzolati. Quindi va bene. Per me è questo, ecco, principalmente. Già abbiamo toccato un sacco di argomenti che snoccioleremo piano piano. Inizierei con la prima traccia. Baptism ha iniziato già a fare una distinzione tra hyperpop e PC music. Giusto per dare due coordinate spazio-temporali, con la PC Music siamo a Londra, siamo a metà degli anni 10 del 2000 e A.G. Cook e Sophie si incontrano e iniziano a produrre e a fare un riesplorazione, un recupero della musica pop, ma in chiave iper futurista, iper proiettata al futuro. Quindi iniziamo con una traccia, e Cutie di Cutie, che è proprio una delle prime tracce della PC Music. Driving around. Allora, appunto abbiamo parlato di PC Music, di G Cook, di Sofi. Inizio magari a chiedervi di raccontarci un po' cosa ha fatto questa PC Music, come ha recuperato il pop, qual è il suo rapporto con il pop. E non solo come viene, però la cosa interessante è che qua non si sta solo facendo un'analisi storica e musicologica, ma anche un'analisi di due persone che queste cose l'hanno vissute, che quando ci siamo viste per parlare, per discutere la puntata, si vedeva proprio che era nella vostra esperienza. Quindi raccontateci. Beh, sicuramente PC Music per me è stato di grande cambiamento. Ho letteralmente plasmato anche quello che è proprio il mio lavoro artistico degli ultimi 10 anni su questo genere, perché racchiude tantissimo. Sophie, the mother of everything, diceva che appunto il pop è il genere di musica dove si può sperimentare di più, perché appunto è contaminato, non è neanche un vero genere, mentre il rock ha una strumentazione specifica, chitarra, basso, o il jazz, il sax. Si parla di pop, che è da sempre stato contaminato da qualsiasi altro genere. Ci sono delle tracce pop rock, oppure pop che si sono l'occhio al blues, o insomma. Il pop è contaminazione, e quindi appunto, perché non sperimentare, perché non renderlo sperimentale, che è una parola che spesso fa paura, no? Perché potrebbe essere un rumore di una bicicletta che gira e potrebbe essere una traccia che ci ascoltiamo tutte, quando in realtà appunto il pop è un terreno fertile proprio per far crescere qualsiasi tipo di idea. E quindi lei ha dato proprio questo valore e, come dicevo un po' prima, no, ci ha anche autorizzato a poter quasi non vergognarci di ascoltare questa musica, quasi sentirci libere di poter urlare a voce alta: sono un little monster. Cioè, e quindi è proprio questo per me, ed è servito, mi è servito tantissimo a sentirmi autorizzata, non dovermi più nascondere o a sentirmi dire: stai ascoltando musica da ragazze. Quindi ecco, per me è stato proprio qualcosa che ha cliccato in me e che mi porta ancora oggi in quello che faccio, nonostante comunque sono 10 anni di PC Music, e quindi è anche un po' una cosa che si sta concludendo, diciamo, non la collettiva, le varie raccolte che hanno fatto musicali, ma che comunque rimane, ha contaminato tantissimo gli ultimi anni. Da qualsiasi punto di vista, appunto, come dicevo prima, musicale, ma aesthetic, modo di vestire, modo di proprio anche mostrarsi sui social, per me è stato fondamentale, importantissimo, ecco. Sì, io mi ricollego fortemente, e la cosa che mi fa molto impressione della relazione con Baptism è, ci conosciamo da relativamente poco, però abbiamo veramente un sacco di riferimenti in comune, connotati a tutta la storia dalla nostra adolescenza, e questa cosa ovviamente crea già una base di connessione, già ovviamente avere dei riferimenti. Io sono qui come opinionista, cioè nel senso fruitrice del pop e dell'hyperpop, che sicuramente riconosco e fieramente incarno in qualche modo, nel senso che è proprio quella roba lì. Cioè io per anni ho subito durante la mia adolescenza, e perché prima dicevo cameretta, perché bene o male nascondevo per necessità, per sopravvivenza, questa mia forte questo mio forte legame alla musica pop, ma proprio a livello emotivo. E aver ritrovato quel filo lì, aver ritrovato dei codici culturali condivisi in una comunità, che è la comunità queer a cui appartengo, e anche proprio aver avuto la validazione, come un po' diceva Baptism, mi ha permesso poi di incarnare, di costruire in qualche modo una sorta di identità che già si era formata da anni e mi ha permesso di, anche per una questione di identità, di genere, di scoperta anche di processi di transizione e di questioning che succedono nella vita, cioè questa componente culturale pop mi ha ho ritrovato poi una nuova validazione. Sofì, grande mamma, culturalmente, musicalmente, avere questa avere questo riscontro, avere questa questo mondo di possibilità in cui l'essere loud, l'essere emotive, l'essere pitch perfect, nel senso non di perfezione ma di high Q, non so come dire, e di sfrontatezza, sfacciataggine, è stato molto forte ed è stato qualcosa che ho ricercato per tanto tempo. Sì, assolutamente. Crescendo. Per non parlare appunto, no, proprio dei pitch che tu citi, cioè tutto quello che è appunto pitchare in alto le voci e quindi quasi femminilizzare le voci, soprattutto mm-hmm. per Sofì, che comunque ha fatto coming out come donna trans non binaria durante la sua carriera, dopo mm-hmm. che erano già uscite le sue prime produzioni, quando ancora era unknown, non si sapeva bene chi fosse, faceva performare drag queen al suo posto. Lei ha appunto avuto proprio un'urgenza, era proprio la dimensione dove la sua urgenza, il suo urge era poter cambiare, poter appunto transitare, e ha transizionato, e ha transizionato anche attraverso la sua musica, attraverso quelle voci femminilizzate così in alto, con questi pitch così alti, che appunto erano quasi bambinesche, perché recuperavano tutta una parte della sua vita che lei insomma non aveva quasi vissuto, non era stata validata a vivere. Allora, avevo in mente un'altra traccia, ma transitiamo anche noi e direi okay. che è arrivato il momento di far partire una traccia di Sofì. Una traccia che è si chiama Get Higher, direi, ed è in realtà uscita 10 anni fa, giusto? Tipo 11 anni, quando è uscito il suo primo EP Product. Mm-hmm. E era la bonus track della versione del release in Giappone dell'EP Product, e che comunque è stata rilasciata su internet illegalmente, cioè comunque è stata trapelata su internet, e è stata rilasciata ufficialmente 2 giorni fa. Quindi ascoltiamo Get Higher, Sofì. Yeah! Allora, qua in Get Higher abbiamo molto chiara una caratteristica musicale, ma che ci racconta tantissimo da un punto di vista emotivo, filosofico, proprio di modo di stare al mondo, dell'hyperpop in generale e in particolare della pitch music, e cioè una voce pitchata, cioè una voce che viene trasformata tramite sistemi elettronici, viene resa più acuta, viene resa più artificiale, viene resa anche più bambina / femminilizzata. Come stava parlando prima Baptism, e sono due componenti essenziali dell'hyperpop e della PC music: l'infantilizzazione e la femminilizzazione. Si parlava prima del fatto che per Sophie è anche stato, da un punto di vista proprio di soggettività queer, l'idea di femminilizzare la propria voce l'abbia aiutata nel processo di transizione. Ma invece, da un punto di vista di infantilizzazione, cosa ci racconta sia nella musica che in chi ascolta la musica, che così può ritornare alla propria infanzia, forse a quel pop che ascoltava prima ma adesso lo riascolta di nuovo per un pop verso il futuro? Cosa vi racconta quest'idea del bimbo che viene fuori dalla pitch music? Beh, sicuramente diciamo fa un pochino pace secondo me con appunto lo bambino interiore che abbiamo tutto. Sicuramente appunto come soggettività queer abbiamo vissuto a lot of traumas, un sacco di situazioni che ancora oggi ci portiamo dietro, e sicuramente è una coccola. Cioè una coccola a quel bambino interiore che ho ancora dentro, quindi mi rassicura, mi valida anche quell'aspetto importante che era appunto poter ascoltare musica pop, musica girly da ragazze, non con le cuffie ma con le casse, cioè per farla sentire a tutto. E, infatti poi mi collego anche alla mia preadolescenza, infanzia, sicuramente io ho mangiato musica pop, e proprio in quegli album, ma di qualsiasi artista che poi appunto dalle putan pop a invece anche un pochino più di nicchia, mi andavo sicuramente a concentrare sulla traccia dell'album, che era quella un po' più particolare, che era quella che un po' sicuramente non era il singolo pop, il tormentone, ma era quella un pochino più con una sonorità un pochino più diversa. Infatti c'è tutto il filone della proto PC music, che sono appunto tracce di Britney Spears, di Gaga, di X, che appunto sounds like hyperpop, sounds like PC music, perché hanno delle caratteristiche nelle produzioni, nel mixaggio delle voci, che appunto ci hanno poi cullato e ci hanno appunto accarezzato quando eravamo bambine, e quindi ci ritroviamo adesso ad essere ancora accarezzate anche quando abbiamo 30 anni da qualche giorno, io. A proposito, prima di dare la parola a Eda, farei partire How I Roll di Britney Spears, grande esempio di hyperpoppata prima dell'hyperpop. New sucks, drink tequila on the rocks till you make your body pop, steam the speaker. Burn it all down, gonna buy another round, gonna light up in the sound of the speaker. Show your new sucks, drink tequila on the rocks till you make your body pop, steam the speaker. I wanna go downtown where my posse's at, because I got nine lives like a kitty cat. You shake till the seconds start to break in the speaker. Can we get fly helicopter in the sky? 'Cause we turn it up high in the speaker. If you know what it takes to be my man, we can go make love together. You can be my thug tonight. We can tear it up tonight. I wanna go down where my posse's at. Because I got nine lives like a kitty. You wanna rilancio la palla Eda che per parlarci appunto di questa cosa dell'infantilizzazione, del recupero del pop, ma nel caso di Eda la sua esperienza ci racconta anche di un'altra influenza che è entrata di traverso nella PC Music e nell'hyper pop in generale. Sì, che è l'influenza pop, K-pop e J-pop, cioè Japan pop e Korean pop. Ho avuto questa parentesi molto bella della mia adolescenza in cui sono venuta a conoscenza di questo. In realtà ai tempi in cui il K-pop non aveva il successo che ha avuto poi dopo, perché ascoltavo gruppi già dal 2013-2014 e li ho ballati nei miei corsi anche di quando facevo hip hop, quando facevo danza hip hop, e è stata un'influenza che era per me l'esperienza era quasi aver scoperto un genere di nicchia, ma che non poteva piacere a nessuno, cioè nel senso proprio per quella era, aveva una connotazione mega girly, cioè sostanzialmente i gruppi K-pop e J-pop sono queste 5, 6, 7 ragazze mega perfette che fanno queste coreografie mega perfette, hanno queste voci perfette, outfit perfetti, lustro bellissimo, però con testi coreani e giapponesi, quindi cioè non si ricreava nessuno, quindi mi sentivo anche un po' speciale, sempre nella mia cameretta, poi hanno avuto un boom, hanno avuto poi un altro boom adesso con i BTS, che è un gruppo invece tutto maschile. Quello che però poi mi è successo avvicinandomi alla cultura pop asiatica e iniziando a studiare giapponese, ho incontrato, proprio per ritornare sul tema dell'infantilizzazione del pitch, ho incontrato questo gruppo per cui sono nata totalmente fuori, che sono i Tempura Kids, che sono questo gruppo di intrattenitoru bimbi per bambini, in cui appunto giapponesi fanno questi balletti assurdi, molto cartuneschi, questi outfit mega fluo, e una delle canzoni che mi ha ricollegato, cioè ha chiuso quasi il cerchio, è una delle canzoni che mi è rimasta in testa e che sono andata sotto anni fa quando ho iniziato a studiare giapponese, che è Cider Cider dei Tempura Kids, che è proprio un inno un inno a uno degli elementi grafici e di advertisement dell'hyperpop, che sono le bevande gasate. La potevo ascoltare solo io. Iconic comunque. Iconic anche perché la prima traccia che abbiamo ascoltato, I Cutie, proprio appunto per tutto l'apporto che poi appunto we live in a society, quindi il capitalismo, e proprio AQT era un brand, una bibita mm-hmm. energetica, mm-hmm. no? Taste bouncy, look frizzy, mm-hmm. cioè era un advice, come si dice? Una pubblicità, ecco. Sì. Cioè, era proprio quello, quindi tutto quello che era appunto anche lo bambino lasciato davanti alla televisione. In una società che ci riempie di pubblicità. Mm. Mm-hmm. Io, se posso, volevo ricollegarmi a un'ultima cosa che mi è venuta in mente, proprio dell'infantilizzazione, cioè questo pitch che è anche una per me è anche una ridicolizzazione di questi codici, cioè il permettersi di essere stupide, cioè superficiali, cioè avere quella gioia bambinesca spensierata che in realtà è cioè per me è stato molto per ricollegarmi poi appunto quel filo è riuscire a mettere in scena in qualche modo riappropriandomi di quei momenti anche traumatici, riuscire a rimetterli in scena e a risignificarli e a divertirmi non da sola ma con 10 ame mentre balliamo in festa e ci parte la canzone mega picciata, no sense, stupida come Caramel Dancing, cioè un altro riferimento molto. E ci emozioniamo fino a piangere con esattamente, quindi quello. Superficiale il cazzo. No, perché rimarca proprio quello che è la nostra infanzia, quello che è un ricordo recondito che, mm-hmm. che abbiamo di più di 10 anni fa, di più di 20 anni fa. Cioè, sono le nostre cose, ovvio che cioè, i nostri genitori avevano il carosello e quindi si emozionano con il carosello, noi con Caramel Dancing. Decisamente. E qua ci porta un argomento topico che è stato molto trattato nel libro, che è un po' l'argomento dell'ironia, per cui Julia Ackerman dice che l'hyperpop sfrutta una post-ironia, per cui guardare tutti questi codici con cui siamo state cresciute, di cui siamo state bombardate, guardarli un po' con uno sguardo critico, però un po' anche ogni tanto sorridendogli con un ghigno un po' malefico di ti voglio, ma in realtà so che non ti voglio. E creare con questo sguardo, questo ghigno ironico, degli accorgimenti per creare delle emozioni che sono così finte, così plasticose, ma allo stesso tempo in qualche modo sono super mega sincere, sono quelle emozioni che ci fanno piangere. È una voce di plastica, ma ci fa piangere. E quello che, come Julie Ackerman descrive il post-ironico, dice è un ironico che però allo stesso tempo riesce ad essere sincero. Vi ci ritrovate? Assolutamente sì. Cioè io non ho mai pensato che quello che stessi ascoltando fosse post-ironico o ironico. Cioè per me è... non è ironia, è anzi intensità. Mi solletica quella parte dei ricordi, mi solletica quella cosa che ho nella nuca, quel ricordo lontano che mi emoziona, che quando si mema e si dice listening to this unironically, mm-hmm. Non ho mai pensato di ascoltarlo in maniera ironica, mm-hmm. E questo è proprio appunto ci ricolleghiamo poi col primo discorso che abbiamo fatto, cioè validare anche una musica pop considerata leggera, mm-hmm. Ma in realtà che racchiude un'intensità sia nei testi ma anche nei momenti che riconduce al momento in cui hai ascoltato quella canzone. E quindi per me la parola ironia non si avvicina più di tanto, non riesco mai a avvicinarmi a questa parola, a pensare questa musica in maniera ironica, anzi la sento intensa. Mm-hmm. Sì, cioè, capisco benissimo e sì, sono molto d'accordo. Quello che a me viene in mente è... cioè... il validarsi, l'ironia la riconduco al a un validarsi dell'essere ridicole, cioè che è parte integrante per me di un'emotività, di una sì, cioè di un ventaglio di emozioni che può racchiudere il pop, cioè in the same song, nella stessa canzone posso essere ridicola, posso essere bitch, posso piangere, posso essere sottona, posso essere la prima stronza con le red flag giganti, cioè avere tutto questo cioè cat costruisce un, cioè, se ti valido un sacco di robe della tua, no? della complessità di quello che si è. Sì, e in parte di questa c'è l'ironia, che forse non è tanto svalutare queste emozioni, ma il validarsi di essere anche ridicole. Mm-hmm. Beh, a me questo discorso ha chiamato Tang di Girlfriend of the Year, una canzone yes, interamente girl. Dedicata al limonare, che da uno sguardo noioso e bacchettone potrebbe essere considerato un testo superficiale, ma quanto è bello il momento in cui si limona. Do it again, it will be for real. Cause we are me and you, and me and you, and me and you, and me and you, and me. Questa canzone per me ha, cioè, è stata una svolta totale, l'ho scoperta qualche anno fa in festa e ha veramente un sacco di significato potentissimo, emotivo. E una cosa che mi è venuta in mente adesso, aneddoto, io a 13 anni, 12-13 anni, che stavo con le mie compagne di classe, quelle più fighe andavano in discoteca il pomeriggio, e poi a scuola raccontavano tra di loro di quante persone avevano limonato. Ecco, io tutta quella roba non l'ho mai vissuta finché non ho iniziato ad uscire un po' più grande e ho iniziato a limonare. Quindi, cioè, è questo che dicevi tu, che stimola delle parti back of your mind, il retro del tuo cervello di ricordi, e la potenza di poterli rivivere a, nel mio caso, 28, 29, 30 anni, quanti ne ho, e cioè, boh, è una cosa fighissima, una cosa, cioè, sono dei pezzi che per un motivo o per un altro, spesso brutti, non hai potuto vivere, e poterlo fare poi dopo, con tutta anche una nuove consapevolezze, cioè, altro che superficiale, raga. Altro che superficiale. Assolutamente. Tra l'altro, cioè, appunto, è evidente che in questa puntata radio siamo tre froci a parlare, che hanno un'esperienza di vita appunto molto legata a quello che poi questo genere musicale suona, come suona proprio, no? Ed è, non so, è molto bello anche perché proprio la PC Music, l'hyperpop, è partito come un genere di persone trans. Quindi poi, per carità, dopo anni, ormai sono 10 anni di PC Music, si è aperto a tutto un mondo, con l'avvento dei 100 Gags sicuramente si è avvicinati molto di più a gli strascichi dell'emo, o comunque a un settaggio più da band, con una sonorità più raw, meno HD. L'hyperpop, la PC Music è sempre stato un pop ultra HD, layerato, di spessore, super prodotto e scolpito. I 100 Gags, quando sono arrivati, hanno invece un po' cambiato tutto, cioè hanno sicuramente aperto le porte a tantissimi altri, ma suoni più raw. Esatto, più raw, più sporchi, che adoro, ho adorato, me li sono mangiati, ma che sicuramente hanno aperto poi il mondo di questo genere musicale a una serie di trapperini, un po' bater, un po' di situazioni così, che sicuramente a noi ci fanno un po' rabbrividire, però appunto io credo che sicuramente nei 100 Gags c'è Laura Less, Thanks Laura, I Love You, e quindi sicuramente c'è sempre questa presenza, questa impronta. Io dico sempre, make hyperpop trans again. Totale. Ne approfitto per giusto mettere Handcrushed by a Mallet dei 100 Gags per renderci conto della differenza di cosa succede anche musicalmente. Qua è assolutamente obbligatorio anche un commento anche che ci riconduce ad altre puntate che abbiamo avuto, quando abbiamo parlato per esempio della techno di Detroit, dell'house di Chicago, che avevamo definito l'altra volta la techno di Detroit come il fratello marxista, l'house di Chicago come la sorella queer, e entrambe afroamericane. Qua invece abbiamo un hyperpop, la cucina trans, completamente fuori di testa, ma che ci racconta il tutto della vita e l'importanza, si diceva, di riconoscere gli inizi di questi generi, di riconoscere il loro carattere di resistenza, il loro carattere di creazione di comunità, e di riconoscere che questi generi poi spesso, come succede nella musica, come succede nella cultura, vengono contaminati, vengono presi in prestito. Una certa, può anche succedere quella cosa di appropriazione culturale, entrano nel mainstream, sono processi alle volte anche inevitabili. Il minimo di cui fa da fare è riconoscere l'inizio, riconoscerne la storia, riconoscerne il tragitto. E io lancerei un argomento che non abbiamo ancora trattato, cioè un'altra queen di cui non abbiamo detto nulla, Charlie XCX. Da da da. Cosa ci raccontate? Volete cantarci Party For You? Che traccia metto? Non la decido io, la decidete voi questa. A voi parlare della nostra Charlie. Charlie secondo me è stato proprio il tramite tra quello che appunto era il pop mainstream con una sonorità di avanguardia. Lei ha sempre fatto, sin dagli inizi, la sua musica era molto contaminata dal mondo dell'internet. Prima le produzioni, le sonorità erano molto più legate alla Witch House, quindi tutta la Tumblr era, mentre poi adesso, poi dal 2014 con l'uscita di Vroom Vroom, tutto l'EP prodotto da Sophie, si è avvicinata appunto a quello che era la cool music, the cool internet music al momento. tra l'altro agli albori, perché lei ci ha visto lungo, per me she's a genius, l'ho appunto vista live diverse volte, l'apprezzo tantissimo, diciamo che l'apporto che dà alle produzioni di A.G. Cook e di Sofi è davvero, non so, impattante in quello che stai ascoltando, l'utilizzo dell'autotune in quel modo, dei vocoder, dei vari effetti della voce, è appunto proprio un... come dire, un gusto raffinato che si scosta tantissimo da quello che stereotipicatamente dove l'autotune viene considerato, cioè nel senso nel genere trap o per correggere appunto le intonazioni. E non so, io vedo tantissimo un ponte fra un po', no, Believe di Cher e Chuck Ten di Charlie XCX, cioè un'intensità, una voce così effettata ma che ti arriva diretta, che se fosse stata pulita non sarebbe stato lo stesso. Mm-hmm. E, poi sì, sicuramente lei ci ha visto lungo, perché sin dall'inizio, dagli albori, si è fatta produrre da Sofi, da A.G. Cook, grazie al suo ex ragazzo Gemelli, mm-hmm, tra l'altro, che gliel'ha fatta scoprire su SoundCloud. Nato il? Il 18 di giugno, perché su... Non il 19. 19 of June, yeah. Today. Esatto, oggi, no, oggi. Perché appunto su Party, sì, for You lei dice facciamo una torta di compleanno, mm, in agosto, ma tu sei nato il 19 giugno, perché appunto diciamo che gli deve davvero tanto, e quindi sì, ovviamente sto parlando di una Charlie anche un po' pre-Brat. Brat ha una sonorità un pochino diversa, un po' più appunto un po' più clubbing ancora, mentre prima era molto più pop, di avanguardia. Mm-hmm. E, nella sua lista di tracce uscite nei vari mixtape, nei vari album o le unreleased, che sono un'infinità, perché appunto hanno fatto esperimenti, hanno prodotto album in una settimana, in una notte con A.G. Cook nel loro basement chiusi, appunto c'è un'infinità in tutta la sua produzione artistica, sì, che è foltissima. Mm-hmm. Cioè io appunto ho iniziato ad ascoltare, ho iniziato a conoscere Charlie da I Love It, secoli e secoli fa, e lei voleva diventare famosa, cioè sarà chiaro, ha fatto di tutto per farlo. Solo, cioè, a me quello che mi è piaciuto di Charlie è proprio quel non voler abbandonare, cioè non voler abbandonarsi al pop americano. E per me quali sono le tue canzoni preferite? Beh, io sinceramente, cioè, allora, Track 10 è sicuramente un anthem, cioè proprio un inno, però ovviamente io, perché so sempre quella un po' così, mi vado a prendere quella un pochino più di nicchia. Mi piace tantissimo Tears, che è featuring Caroline Polacek, pure lei, insomma, Icon, o Delicious, che è con Tommy Cash, ovviamente pre-espresso macchiato, cioè 2017, una cosa del genere. E, se no, sì, penso principalmente queste due. C'è da dire che l'EP Vroom Vroom, l'EP, quindi tutto il progetto che racchiude le tracce, con Vroom Vroom in mezzo, tutto interamente prodotto da Sofi, è davvero un grandissimo lavoro. Però diciamo che sono molto divertenti, quindi soprattutto in questo momento, in quindi gli ultimi anni, sto ascoltandomi più delle cose che appunto abbiano un'intensità, sì, magari, eccetera, che just having fun or dancing. Te lo chiedo perché io amo Charlie, cioè nel senso l'ho ascoltata tantissimo di brutto, e però mi rendo conto che le canzoni che verso le quali tendo di più sono quelle mega drama, cioè da sottona, che è una sottona. Amore, leone. Cioè. E quindi sì, Party for You, in cui mi identifico, ma prima me l'ero dimenticata, io c'ero finita sotto per White Mercedes, che è mega, cioè è mega pop. pop, proprio basic pop quella canzone, ma io l'ho, cioè, like a wild, cioè quelle note melene proprio da mi struggo. Diciamo che lei ha davvero, appunto, no, in questo repertorio vastissimo di tracce edite, unreleased, ha letteralmente ogni traccia si può according to your mood. Mm-hmm. Cioè, vuoi ubriacarti con le amiche, far serata, cioè, piena di quelle, di quelle party girl. Vuoi piangere perché sei disperata, perché sei stata lasciata e c'hai una traccia, sì, così. Sì. Sei con le amiche, cioè, quando c'è stato il Covid, lei ha fatto un album in quarantena, chiusa in casa, in collaborazione un po' con i fan, su Zoom. Ci sono delle tracce che rappresentano appieno quel periodo. Mm-hmm. Cioè, Anthems, che parla appunto di voler uscire da casa, di brain rottare sul letto, di voler appunto andare nei club, ma ci possono contenere quei club, no? Su Pink mm-hmm. Diamond. Ci riescono a contenere quei club in questo momento? No, perché siamo tutti online, perché il club è 15.000 persone online che ballano su insomma su club virtuali. Certo. Quindi ha davvero tanto nella sua, insomma, nel suo repertorio, che può collegarsi a tanti momenti diversi. E quindi sì, cioè, sì, io questo collegamento lo vedo, cioè anche Sofì ce l'ha sta roba, cioè questo collegamento, cioè quello che dicevo prima di attraversare tutti gli dell'hyper pop, attraversare tutti gli stati emotivi e portare a galla tutte le parti di sé è una cosa fighissima, cioè è una cosa totalmente, per me è totalmente Gemini, cioè la mattina sono depressa, il pomeriggio sono a mille, la sera mi vedo con le amiche, sono scazzata e mi metto gli occhiali da sole e poi piango, cioè quella roba lì per me è... She's just a girl. Beh, ne approfitto, siccome hai rinominato Sofì, per far partire i trofi dell'EP Vroom Vroom di Charlie XCX, prodotto dalla madre Sofì. I want that trophy. I want that trophy. Yeah, bitch, I'm here to take that crown. Make it move it up and down. Pull up the tangerine dreams. Step out of that limousine. We walk in and we floss it. Yeah, we keep it pink and we bounce it. Hey, it's like I told you so. Number one. Take the crown, shut it down. About to steal the show. Shooting star, I'm a boss. Never let my go. Want that trophy. Throwing up, throwing up, throwing up. I want that trophy. Throwing up, throwing up, throwing up. I want that trophy. Bitch, I'm here to fuck you up. Wanna make your bottle pop. Bene, lancio l'ultimo argomento di conversazione Un altro argomento che parte da una caratteristica prettamente musicale della PC Music, ma raggiunge un modo di essere dell'hyperpop, un modo di essere un po' dello stare al mondo in questa post-contemporaneità, come vogliamo chiamarla. Ed è l'argomento di un'esperienza della temporalità abbastanza frenetica, abbastanza impazzita, abbastanza accartocciata anche quasi. Cioè non è più quell'idea novecentesca di un tempo lineare che va sempre verso un'accelerazione infinita, verso il progresso, ma adesso ci ritroviamo al passare da momenti di lentezza estrema a momenti di velocità frenetica, di reel, Instagram, 50.000 cose da fare, WhatsApp, devo rispondere, devo fare. E questo si sente molto, molto nella musica della PC Music e per estensione nella musica hyperpopposa, come la stiamo chiamando. Mentre ne parliamo vi faccio ascoltare Until We Fold Into Each Other Again dei 500. E anche qua dentro c'è la parola fold, quindi la parola ripiegarsi. Quindi siamo davanti proprio a un tempo ripiegato, una temporalità che non è quella lineare, continua, diretta, ma una temporalità che passa dal passato al futuro. Come abbiamo detto che si fa anche nel ripescare il passato dell'infanzia e portarlo al presente e verso un futuro ultra queer. Niente, questo... Cosa ci comunica questa temporalità? Sì, sicuramente un altro elemento, oltre alle vado per immagini, oltre alle bevande gasate, un altro elemento è la velocità e quindi le macchine. Vroom vroom, cioè tutte le macchine ad esempio citate da Charlie XCX nelle sue canzoni. Quindi c'è questo elemento di ipervelocità, come l'hyper pitch, e questa distorsione del tempo, questa necessità di andare veloce, che a un certo punto quello che ho notato in questo genere ombrello che è l'hyper pop, che ha abbracciato anche questo folding, cioè questo ripiegarsi del tempo, cioè che da l'estremamente veloce si piega su se stesso e, come si sente in questa traccia, diventa lentissimo e ritorna velocissimo. Esattamente. Sì, per ora mi viene in mente, cioè la trovo ancora una volta la trovo quella del tempo, della velocità o della lentezza, una dimensione emotiva molto interessante, cioè non lo so, è un collegamento che faccio direttamente a un'emotività e sì, mi sono forse un po' persa, però non lo so, è una cosa che mi ha sempre, cioè mi ha incuriosito, ritracciando questa tracciando questi confini di questo genere, cioè come potessero dialogare queste due cose, l'ipervelocità e questa distorsione invece del tempo al rilento, che appunto poi diventa distruttivo, comunque implode, esplode e adesso mi è venuto in mente sicuramente una, cioè la questione della temporalità queer, nel senso una decostruzione del tempo, toccarlo con mano, decidere uscendo dalla linearità, dai processi lineari. Questo sicuramente è qualcosa che sto toccando con mano. E sì, e quindi sì, forse anche per questo emotivo. Beh, Julie Ackerman appunto nel libro sull'hyperpop riprende tantissimo Cruising Utopia. di José Esteban Muñoz, che fa tutto un discorso proprio su quello che hai definito temporalità queer, quindi una temporalità che si discosta dalla temporalità lineare e orientata alla produzione dell'eteronormatività, per andare a costruire tutti degli altri modi di vivere nello spazio e nel tempo. E appunto Ackerman parla di come l'hyperpop lo fa recuperando il passato e proiettandolo verso il futuro. Quando parlavi prima di emotività, anche un po' la lentezza, anche un po' diciamo una temporalità della malinconia, di questa malinconia che riprende un passato, anche un passato che magari per una soggettività, cioè, senza magari, perché per un'oggettività queer è stato un passato spesso difficile, e però lo riaccartoccia, lo avvicina al presente della soggettività queer che sta facendo festa con le ame, lo porta verso un futuro che non è... Sì, esatto, e a proposito di cioè questa traccia proprio che ho fatto ascoltare prima, vi ho fatto ascoltare prima, una traccia di un gruppo piccolissimo, penso, non so neanche quanti ascoltatori abbia su Spotify, però la parte di lyrics, l'unica cosa che dice, cioè prende questa lyrics di questa traccia che purtroppo non mi ricordo il titolo, Baby Please Don't Go, If I Wake Up Tomorrow Would You Still Be Here, l'ho fatta sentire a Baptism, mi ha detto no, loro non li conoscono, no, la traccia non la so, però certo la lyrics ce l'ho. E un altro elemento dell'hyperpop è proprio andare a ripescare proprio plasmare musiche, ritmi, suoni, lyrics anche di 20 anni fa. Esatto, è un po' anche come quasi se il tempo si fermasse, sia proprio a livello di BPM, e quindi no, si abbassa, si stoppa, si riaccelera, ma anche proprio il tempo inteso come appunto il tempo passato, quindi è quello che appunto, come abbiamo sempre detto tante volte oggi, si ritorna a un'infanzia. Anche nelle tracce che abbiamo sentito, no, ci sono questi sorta di breakdown, non so come chiamarli, no? Dove sparisce quasi tutto, rallenta, c'è magari la produzione è quasi paradisiaca, è un po' angelica, e poi ritorna magari un basso prepotente anche su Tang, perché appunto è il tempo che si ferma, è la sensazione di spiazzamento che provi anche, no, mentre stai ballando, ma quel momento che ti fa pensare a quella lyrics specifica che appunto ti rievoca un ricordo di quando eri bambina, o addirittura appunto sempre il discorso sulle pubblicità, cioè si stoppa Lemonade di Sophie, no? Cioè a un certo punto parte un jingle e poi riprende Lemonade, perché appunto il tempo si ferma, perché lo spiazzamento, lo smarrimento che ti dà in quel momento è in realtà il momento in cui tu pensi a quello che stai ascoltando, no? Anche il momento in cui tu realizzi. Quindi sia importantissimo anche appunto per la nostra esperienza di vita, quanto appunto quando siamo bambini siamo molto più cauti nelle cose, più fermi, più rallentati, cioè abbiamo dei tempi diversi ovviamente, e vediamo il mondo degli adulti come rapidissimo, come accelerato, come una corsa contro il tempo, mamma che va al lavoro, poi torna, fa la spesa, papà che torna, insomma vediamo il mondo degli adulti in quel modo lì, e quindi ritrovarci a adulte, ascoltare questa musica che ci coccola appunto, come dicevo un po' prima, dà una carezza a quel bambino interiore che tutti abbiamo, è importante, perché appunto mi ritrovo in cameretta mia, come è stata super citata, le nostre camerette sono state super citate, mi ritrovo in cameretta mia a prendermi quel tempo che adesso non posso più fare, non posso più prendermi. Beh, questa conversazione mi riporta alla distinzione iniziale tra PC Music e Hyperpop e all'idea che, per esempio, sta essendo una cosa molto comune nel DJing, nel clubbing, quello di produrre remix di quando eravamo di canzoni, di tracce di quando eravamo piccole, inaspettate, che 5 anni fa, 10 anni fa la gente ti avrebbe guardato, avrebbe detto che fai, come appunto dicevano la gente che ascoltava il pop nel 2015. Esatto. E quindi a questo fatto che il libro ha parlato anche a me, che magari non conoscevo tutti gli EP di Sophie Charlie XCX, perché questo recupero di un passato proiettato verso il futuro, è qualcosa che forse nelle nostre generazioni, nell'oggi, stiamo comunque cercando di fare per trovare delle alternative invece a quella standardizzazione di un continuare a dover fare, a dover rimanere nei binari di questa società. Sì, una cosa che mi viene in mente è sicuramente a livello, cioè la nostalgia funziona soprattutto nella musica, cioè è una cosa che ciclicamente ritorna, no? La cosa interessante, cioè nel senso che qualsiasi generazione poi crescendo ritrova dei pezzi che ascoltava e li riportano indietro in un altro tempo, quella roba funziona, cioè ha sempre funzionato, è molto bella. Appunto la cosa, come ho detto prima, forse mi ripeto, che è interessante che cioè te le ritrovi e ti spiazzano perché non te l'aspettavi, perché sono decostruite, sono ricostruite, sono appunto sono state rimodellate in qualche modo, e quindi sì, le risignifichi anche. Totale. E quindi anche se non è PC Music, Hyper Pop può essere stare ballando, parte Believe di Cher, ti viene da piangere, ma c'è di fianco la tua ama con cui piangere. Che tra l'altro mi ricorda una meravigliosa frase di Baptism quando abbiamo fatto un brainstorming tra di noi, che aveva definito l'hyper pop come un incontro tra amiche, che va al di là di quella che può essere la PC Music. Esatto. Beh, ciò detto, io metterei una traccia di chiusura che è un remix di Hide and Seek di Young Earl. E se volete dire qualche parola anche di chiusura. Beh, posso dire che con questa traccia ho chiuso diversi set, diversi DJ set, perché appunto è quel closing nostalgico e malinconico che ti riporta appunto a un ricordo, ma con quel twist che ovviamente insomma è un po' Jersey Club in realtà come remix, però Imogen Heap, Hide and Seek, proto PC Music, cioè l'utilizzo del vocoder, delle voci, i sample, le loop station, la voce che passa attraverso il PC, il personal computer. Sì, grande Imogen Heap, ti amo, non so che dire. Sì, questa canzone ci tenevo molto che fosse in chiusura, per me è proprio, cioè è la nostalgia, non so, cioè è proprio fatta canzone, è impressionante. Ogni volta che la riascolto, penso che questa canzone abbia 25 anni, credo sia del 2001 l'originale, o siamo lì. Cioè è veramente una delle tracce senza tempo, è un capolavoro. Aspetta che sto controllando. È del 2005, ah, 20 okay. anni. 20 anni. 20 anni. Comunque maggiorenne. Va bene, allora che dire, grazie. Grazie. E ci vediamo nel ricordo. Yes. Grazie mille. Grazie, grazie a te e a tutte. Trains and swallowing machines, you won't catch me around here. Blood and fools, they were here first. What you say? That you only meant well, well, of course you did. What you say? That it's all for the best, the president. What you say? That it is the one we need. You decided this. What you say? What did she say? what you say. That it's all for the best. It comes in what you say. Just what we need. You decided this, what you say. What did she say?